Dopo le tensioni dei giorni scorsi col Presidente del Consiglio, oggi è il giorno nel quale gli industriali parteciperanno agli stati generali e presenteranno il loro piano. Ieri è stata la volta di Confcommercio e dei piccoli che hanno parlato di 1 milione di posti a rischio. E ieri l'esecutivo ha trovato il tempo anche per una riunione su Alitalia, annunciando un parziale scioglimento dei nodi, ma non quello dei nuovi vertici. La sostanza è quella che conosciamo. 3 miliardi per far nascere la nuova compagnia, ma resta sul piatto l'ipotesi dei 2000 esuberi. Si attende, così come resta sospeso il dossier autostrade. Il tutto mentre fa discutere la scarcerazione di Massimo Carminati, l'ex estremista nero accusato di essere a capo di un'organizzazione criminale romana con ramificazioni in politica. Caduta l'accusa di associazione mafiosa, scaduti i termini di custodia, ritardato il deposito delle motivazioni, è uscito. Il ministro Bonafede manda gli ispettori. Ehi! Ma oggi riaprono le scuole, ovviamente solo per la maturità. In bocca al lupo a tutti e in bocca al lupo a Napoli e Juve, chiamate questa sera una finale di Coppa Italia che è un pezzo del nostro ritorno alla normalità. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. I'm free to do what I want in any old time. I'm free to do what I want in any old time. So love me. Ed eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Sono le 6:33 minuti di mercoledì 17 giugno. Ci siamo e vi aspetto come sempre a voi, che aspetto voi che siete la nostra task force al 349-238-6666. Le vostre voci, mi raccomando, oppure anche dei messaggi scritti se volete, se ritenete di avere ancora una voce troppo da sonno per mandare un WhatsApp audio, va bene anche un messaggio scritto. Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, in redazione anche Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera, i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, la nostra task force. Nell'introduzione vi ho risparmiato, e però insomma apriamo con quello, va, oggi vi ho risparmiato la questione ciliegie. Se ne è parlato ieri, beh, sui social continuamente, e la storia è questa. Ieri conferenza stampa in diretta di Luca Zaia e Matteo Salvini. Cosa succede? Mentre Zaia sta parlando di un argomento molto serio, possiamo sentire l'audio perché poi insomma... Penso che sia doveroso mettere in sicurezza i bimbi, mettere in sicurezza l'ospedale e dopo... E l'argomento molto serio qual è? È il punto nascite di Verona, nel quale ci sono stati, è morta una neonata, una bambina molto piccola, e c'è il sospetto su altri due... Un anno fa, un'infezione ospedaliera, una cosa molto grave. E c'è questa conferenza stampa con l'inquadratura di Luca Zaia da una parte che parla di questo argomento molto serio e Matteo Salvini accanto a lui con davanti un cesto di ciliegie che mangia e lascia i noccioli là. Ieri tutti sono un po' scatenati, ma che rispetto istituzionale è di fronte a un argomento così serio? Il tutto mentre il governo appunto continua queste riunioni degli stati generali, no? Ieri il Presidente del Consiglio Conte sul Recovery Fund e il Recovery Plan. Ragazzi, stiamo diventando pazzi. Oh, non dico che è colpa di Conte, dico che... Insomma, diamoci una regolata. Allora, mettiamo ordine così ci capiamo su questo file di conto che stiamo per mandare. Il Recovery Fund è il fondo europeo, quello che dovrebbe arrivare, i soldi europei che dovrebbero arrivare a partire probabilmente dal 2021. Se trovano l'accordo in Europa, naturalmente. Il Recovery Plan è il piano per il recupero e per il rilancio vero e proprio. Sentiamo Conte, qua anche a lui, insomma, giustamente, se vogliamo, gli si impiccia un po' la lingua a un certo punto. Vai, vai. Adesso stanno per arrivare, per dire, questo Recovery Fund, e quindi siamo chiamati a elaborare nell'ambito di questo piano di rilancio poi un più specifico Recovery Plan italiano. Ovviamente nell'ambito di questo, perché questo c'è tutto il programma. Nell'ambito del piano di rilancio con il Recovery Fund, il Recovery Plan. Stiamo diventando matti, completamente matti. Oggi Conte riceve gli industriali e, insomma, è inutile negare le tensioni che ci sono state nei giorni scorsi. Ieri il Presidente del Consiglio ha detto a un certo punto c'è un po' di ansia da prestazione da parte di Confindustria. Ma mi dicono che la storia di Confindustria c'è, che all'inizio, quando c'è un nuovo insediamento, c'è una certa ansia di prestazione, tra virgolette, politica. Io mi aspetto da dottor Bonomi e da tutti gli associati un'ansia da prestazione imprenditoriale, e questo è il loro scopo. Noi gli saremo al fianco per promuovere il nostro Made in Italy anche all'estero. Insomma, penso che quella non mancherà nell'incontro di oggi. Confindustria ha intenzione di presentare il suo piano. Vedremo come andranno le cose finalmente arrivati a questo confronto con l'esecutivo. Caro Claudio Velardi, come stai? Bentornato. No, ecco. Grazie, eccoci qua. Eccoci. Allora, è partito tra enorme scetticismo questo appuntamento degli Stati Generali, con, insomma, adesso forse inizia a comporsi qualcosa, piano piano, certo. Ci sono tutte le perplessità che restano, i 10 giorni, il fatto che servono azioni immediate, però mi pare che piano piano, no, qualcosa si sta componendo. Che dici? Ma ti sento ottimista questa mattina. È così. Ma nel senso che, diciamo, avrebbero potuto perdere molto meno tempo, avrebbero potuto dire la loro in maniera seria sul piano Colao. Avrebbero potuto anche dire è tutto da buttare, però intanto siete stati voi, governo, a mettere lì questa commissione. Ora, non c'è nessun rapporto tra i 100 e passa pagine prodotte dalla commissione Colao e quello che si sta facendo agli Stati Generali, che peraltro durano 10 giorni e quindi non fanno altro che ritardare il momento delle decisioni operative. Quindi sì, vabbè, sarà piacevole avere questa passerella, poter riempire qualche pagina di giornale, sì. Ma al di là mi pare che non si vada, sinceramente, con tutta la benevolenza. Sì. Con tutta la benevolenza e le speranze per il nostro paese. Scrive un ascoltatore: facciamo il Recovery Flan e poi le ciliegie come frutta. Non è male questa. Ascolta Claudio, la storia delle ciliegie, dimmi la verità, perché poi qua, quando si tratta di Salvini, no, essendo quella macchina comunicativa che è stata per lungo tempo, molti dicono no, in realtà la voleva fare perché voleva che emergesse lui da quella conferenza stampa. Secondo te è un inciampo? No, questa è una sciocchezza. Allora, io non lo reputo un inciampo istituzionale, come qualcuno ha detto, nel senso che se ne vedono tante, diciamo, di cafonate istituzionali nel nostro paese, non mi sembra neppure la più grave. A me interessa invece un'altra cosa, lo stato psicologico di Salvini, perché lui mangia queste ciliegie in maniera assolutamente compulsiva. Sì, si capisce chiaramente che con la testa sta da un'altra parte, che non è sereno, è preoccupato, come dire, come se attraverso questo ingurgitamento compulsivo di ciliegie le preoccupazioni, venga fuori la sua condizione politica attuale. Questo non è male. Preoccupazioni di Claudio Velardi per la situazione psicologica di Matteo Salvini. Ma sai, sono le cose che contano. No, è vero, adesso io ci rido, però vuol dire che vanno avanti, che fanno cose, che possono immaginare di dare un contributo al paese. Se tu sei invece così palesemente nervoso, vuol dire che qualche cosa non funziona. Sì, cosa fare? In te, nella tua politica, nella tua azione pubblica, magari anche nel tuo stato personale, questo non lo so, non arrivo a dire tanto. C'è, insomma, il tutto, no? Mentre noi siamo qua a chiacchierare, o meglio noi, dico anche il governo, agli stati generali e via dicendo. Beh, ieri ne abbiamo parlato, abbiamo avuto ospite Guglielmo Loi, presidente del Consiglio di Sorveglianza e l'INPS, che ci ha detto, insomma, che c'è un grande tema, continua ad esserci un grande tema della cassa integrazione. La cassa integrazione che, sulla quale ci sono stati dei ritardi francamente inaccettabili, va detto, e sulla quale non abbiamo ancora chiarezza sui numeri, ci ha detto Loi ieri, perché ha detto sì, è vero, a noi come INPS, cioè all'INPS risulta una certa cifra, e però ci sono delle richieste che non sono state ancora vagliate. Potremmo parlare ancora di 500.000 persone in attesa, addirittura potrebbero essere, alcuni dicono questo, tanto che Matteo Renzi chiede di fatto la testa di Pasquale Tridico, del presidente dell'INPS. Tridico aveva detto che entro venerdì sarebbe arrivato. Tridico è un disastro. Guardi, scusi, il presidente dell'INPS è in questa vicenda, come si dice, il peggiore in campo calcisticamente parlando. E hanno avuto il problema del click day, gli autonomi, 600 euro, e lui ha detto, ah no, ho avuto un attacco di hacker. Ma che attacco di hacker? Avevano un sistema desueto, un sistema arcaico, un sistema che non funzionava. Ora continuano a fare annunci. Io lo avrei cacciato, dice Renzi. Quello dell'INPS l'avrei cacciato Tridico subito. E ci sono tante altre questioni che a me non convincono dell'azione del governo. Però in questa fase che faccio? C'è un paese che soffre, ci sono migliaia di persone in difficoltà, c'è gente che è stata 3 mesi in quarantena, cioè chiusi in casa, le libertà costituzionali bloccate. C'è un paese che spende 80 miliardi dei figli. Quindi, io da ex presidente del Consiglio, da uno che comunque ha servito la bandiera e le istituzioni, dice, devo dare una mano. E insomma, così Matteo Renzi su Tridico. Fa notare qualche ascoltatore, caro Claudio, sicuramente quelle ciliegie erano molto buone, su questo mi sembra che non ci sia dubbio, insomma. E poi si sa che una tira l'altra, quindi sarà anche l'impatto psicologico, però insomma c'è sicuramente anche quell'elemento. Allora, come risparmiare ai nostri cari ascoltatori che sono appassionati del tema e dei quattrini che regolarmente infiliamo dentro la ex compagnia di bandiera, almeno una voce sulla questione Alitalia. Ieri il governo ha trovato il tempo di riunirsi, di dare il via libera all'operazione per la costituzione di una nuova compagnia, nella quale verranno innestati 3 miliarducci di euro, 3 miliarducci di euro di un prestito che possiamo tranquillamente presumere che sarà come il precedente prestito ponte, quello da 9 miliardi, che non verrà mai restituito, per rifondare la compagnia. Sentiamo la ministra De Micheli. Si parla di un pezzo di compagnia dedicata alla low cost. È realistico? Nel piano che ho presentato questo non è previsto. Una compagnia che riesce in un anno e mezzo, con il progressivo ripartire del traffico aereo, affrontare queste questioni, che sono le questioni fondamentali dell'Italia da sempre, potrà a questo punto sul mercato mondiale, europeo prima di tutto e mondiale, negoziare con dei partner industriali, prima di tutto industriali, perché all'Italia ha bisogno di avere partner industriali. I partner finanziari ce li ha sempre avuti. Vedremo, traffico. Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus free. Dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo: innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni, aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. Mattino. Ieri il Sole 24 Ore ha pubblicato un bel pezzo di Andrea Biondi, che ci il quale torna sul tema oggi tra l'altro, che ci raccontava dei 500 sindaci, dei 500 comuni contro il 5G, nel quale, caro Claudio Velardi, tra l'altro è ricitato con la Fondazione Ottimisti e Razionali, proprio perché c'è una vostra opposizione a questi sindaci. Adesso ne parliamo perché abbiamo Alessandro Tomasi, che è il sindaco di Pistoia e che ha, non so se in canna o già approvata, un'ordinanza contro il 5G. Buongiorno Tomasi, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. In realtà già approvata. Come già mai? Approvata. Come mai non volete la sperimentazione, l'arrivo del 5G nella vostra città? No, guardi, non è una posizione contro a prescindere. Noi l'abbiamo emessa sul principio di precauzione, perché come quasi tutto in Italia ricade sui sindaci, essendo noi la massima autorità sanitaria del territorio preposta alla tutela dei nostri cittadini. E naturalmente purtroppo abbiamo sempre meno strumenti per governare, controllare e capire fenomeni come questo, se non poi l'ultima istanza, l'ordinanza. Quindi per la confusione, incertezza rispetto alla salute e al governo anche di questo fenomeno sul territorio, che anche questo bisognerebbe discuterne, e noi abbiamo messo su quali ordinanza. Basi scientifiche però, Tomasi, dite no al 5G? Ma noi abbiamo osservato in particolare che diciamo c'è molto dubbio su questo rispetto alle basi scientifiche, sia che provano che siano nocive, sia che provano che non lo siano, e per questo con un principio di precauzione abbiamo emesso l'ordinanza. Non mi voglio sostituire agli scienziati né ai ricercatori, non è mio compito, e per questo che noi sindaci sul territorio, ripeto, che siamo l'ultimo anello della catena, vorremmo avere maggior chiarezza, in particolare delle istituzioni che stanno sopra di noi. Ripeto, gli ultimi siamo noi quelli preposti a tutelare la salute dei nostri concittadini. A noi vengono a chiedere da una parte e dall'altra lo sviluppo del 5G o di bloccarlo per motivi di salute. Ecco, sarebbe bene chiarire da un punto di vista scientifico. E questo è il suo punto. Anche di governo. Anche di governo. Capire il governo, qual è la strategia del governo per il 5G. Claudio Velardi, cosa ti senti di rispondere al sindaco di Pistoia? Ti sembrerà strano, ma il sindaco di Pistoia dice in qualche modo la verità, nel senso che lui, per timore che qualcuno gli venga addosso con una denuncia, con qualcosa, diciamo, rispetto ad un problema che non esiste, ma che naturalmente nella mente fantasiosa di qualcuno c'è, adotta non il principio di precauzione sanitaria, diciamo così, ma un suo principio di un principio di precauzione per sé. Lo fate per tutelarvi, Tomasi, lo fate per tutelarvi? Lo fate per tutelarvi, Tomasi? No, guardi, ho talmente tanti rischi e responsabilità ogni giorno su ogni cittadino e per ogni evento atmosferico che è quasi impossibile. Per tutelarsi e per tutelare, forse, ripeto, non voglio sostituirmi a uno scienziato, la salute dei cittadini fino a quando. Però Tomasi, le faccio un'osservazione. Col principio di precauzione non si fa nulla. Cioè, se noi ci basiamo sul principio di precauzione, non facciamo niente. Sì, ma Ma guardi, personalmente, come tutti gli altri sindaci, se no il paese sarebbe bloccato, e non è bloccato sicuramente per il principio di precauzione. Non è che abbiamo andiamo dietro a tutte le cose fantasiose che ci vengano a proporre, lei non se lo immagina nemmeno. Addirittura non dovremmo abbattere nemmeno gli alberi malati delle città, no? Perché producono, a detta di qualcuno, ossigeno e ombra. Quindi noi non sono, come si dice, un terrapiattista o che rincorre i comitati, anzi non credo nemmeno mi abbiano votato. Però diciamo, io vorrei, essendo, ripeto, la massima autorità sanitaria, avere la certezza e la chiarezza su come agire. Posso aggiungere una cosa sul governo di questo fenomeno? Come avviene? Da noi la prima autorizzazione viene data da ARPAT. Sì. E praticamente ARPAT, visto questa nuova tecnologia che non è, mi dicono, statica ma dinamica rispetto anche alla diffusione delle antenne, sul funzionamento, sì, non ha gli strumenti o deve aggiornare gli strumenti per la valutazione della quantità e dell'impatto delle onde elettromagnetiche. Quindi abbiamo un soggetto. Cioè il soggetto pubblico non è in grado di fare le verifiche che dovrebbe fare. Non ha le strumentazioni e non ha, addirittura aggiungo io, scusi, anche il personale, perché recentemente ci sono stati. Dopodiché arriva l'ufficio urbanistica da noi, dopo 30 giorni, se non si riescono a esaminare le cose, si va in silenzio al senso. Bene, allora possono i sindaci chiedere per favore alle regioni e al governo tutti insieme di condividere i percorsi, le responsabilità e avere almeno i mezzi per dare dei pareri? Ok, mi sembra interessante il discorso di Tomasi, Claudio, perché è un discorso più largo, no? Allora, il discorso più largo riguarda naturalmente il funzionamento della macchina amministrativa italiana, e non c'è dubbio che quello sia un caos assoluto, tant'è che nell'appello che le fondazioni hanno fatto per il 5G che tu hai citato, noi diciamo: date alle amministrazioni centrali la potestà di decisione sulla questione appunto del procedimento amministrativo per mettere le antenne del 5G. E in quel modo, diciamo, i sindaci vengono scaricati dalle responsabilità e le cose procedono. Ma veniamo alla sostanza, perché sul piano formale capisco tutte quante le obiezioni, sì, le perplessità e le paure. Andiamo alla sostanza. Il 3G e il 4G, parliamo del 4G, quello che abbiamo adesso, ok, sì, a disposizione, è certamente più dannoso del 5G, naturalmente non lo è dannoso, ma le celle del 5G avranno delle antenne molto più piccole, con fasci radio direzionabili, un po' questo lo diceva il sindaco, delle celle, sì, dinamiche, che connettono i singoli telefonini a ogni cella. Quindi le potenze emissive delle cosiddette come dire, che possono provocare, sì, danni, le onde elettromagnetiche, sono assolutamente minori, sì, okay? E questo è il punto di fondo. Claudio, io faccio una domanda, scusami, un'ultima domanda. Perché abbiamo veramente 10 secondi, sì, siamo in chiusura. Allora, la domanda è questa qua: ma se avessimo bloccato il 4G, perché si poteva tranquillamente prima che venisse, che punto sarebbe nel lockdown? A che punto, esatto, saremmo? Saremmo diventati matti. Grazie Claudio Velardi. Ci torniamo su questo tema, perché vedo che gli ascoltatori si stanno scaldando anche. Claudio Velardi, grazie ad Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia. GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.